Attenzione canale 10, c'è qualcuno sul canale 10. Canale 10, c'è qualcuno sul canale 10, 27075. Attenzione canale 10, 27075, alfabeto. Attenzione, alfabetura da questa parte. Hola, hola, finito il mercato, scusa, alfa 21, alfa 21. Hola Spagna, vale, alfa 21 da questa parte, overrò Riccardo, QTH di Sassari, nord della Sardegna. Sì, questa è la Sardegna. Hola Miguel, quali sono le tue condizioni di lavoro? Hola Miguel, quali sono le tue condizioni di lavoro? Ah vale Miguel, le mie condizioni di lavoro sono una stazione base Colt Black Shadow, un'antenna Sirio Blizzard 2700 e un microfono preamplificato ZG MB+5. Cosa? Miguel? Sì Miguel! No, il tuo ultimo commentario era un po' così perché si è messa la portante, non so come si dice in spagnol, la portante. Ah, vale, Miguel, se te lo chiedo, una QSL, tu vorresti fare una QSL? Ok, vale, a te le dico la mia email, un attimo, vale, no, io te mando la mia mail, te do la mia mail. E la mia mail è Romeo India Charlie Alfa Romeo a te. Vale Galicia, Francisco, aspetta, sto hablando con tuo compagno. Miguel, ok vale, è un po' di QSB. Adesso te dico la mia mail. Ok, vale, rivedo. Romeo, India, Charlie. Alfa, Romeo, Delta, Delta, no. Aspetta, rivedo. Romeo, India, Charlie. Alfa, Romeo, Delta, dimmi la tua mail, Miguel, scusa, la tua mail, rivede Miguel, no Miguel, rivede la tua mail, non ho capito, rivede la tua mail. Sì, vale, rivede la tua mail. Ok, vale Miguel, ti scrivo una mail. Ok Miguel, vale, grazie per le QSO 7351 e adesso ti scrivo la mail. Vai Miguel, avanti le compagnero. Bella Claudio. Tutto a posto, vediamo se c'è qualche compagno, qualche amico dalla Spagna. Hai una modulazione inversa, che cosa hai fatto? È un po' così la modulazione, non è perfetta come le altre volte. Vai compagno, avanti! Adesso è meglio, adesso sei tu. Riprendo, come ho detto, ho fatto un collegamento, sto scrivendo una mail per una QSL. No, Spagna. ti dico, io a scuola faccio francese, inglese, spagnolo non avevo mai sentito una parola, ascoltando, facendo radioascolto, che sentivo spagnolo un po', ho appreso. Ok, va bene, sì, ho visto anche la propagazione che c'era, ma oggi c'era qualcuno, per caso l'hai acceso, perché sono tornato alle 2 che ero zona Porto Palmas in campeggio e non ho sentito nessuno, stavo facendo diverse chiamate e poi ho trovato spagnolo, un po' di propagazione. Ok, vabbè, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare anche a propagazione, che oggi, visto che mi sono assentato un po' alla radio, visto che ero in campeggio, fare un po' di DX, vediamo. Nessuno. Comunque, adesso vediamo se entra qualcuno, perché io dico, all'argentiera, anche se avevo un'antenna, come dire, grossa, ne avevo una cosa alta, sul campero non sentivo nessuno. Siamo andati in campeggio a Porto Palmas, praticamente, non a Argentiera, vabbè, più o meno è lì attaccato, a Porto Palmas dove c'è il bar. Sì, lo so, io non ci sono mai andato tipo lì dove ci sono le case, sarebbe interessante. Sì, nel camper l'ho messo e non, ho fatto 2DX con Spagna, penisola iberica, però qui a Sassari non sentivo nessuno, neanche di quelli forti tipo Claudio o Roberto. Vedremo, bisogna vedere anche un giorno che lo sento e devo vedere alla radio, partendo da Sassari, quando è il momento che mi sparisce dal radar. Tra quelli più forti per l'attrezzatura e soprattutto la posizione. Comunque c'è una portante sotto di te, ma non ti disturba, non ci preoccupiamo. Molto fastidio perché mi ha messo portante quando mi scollo, mi stava dicendo la mail e non la capivo. Adesso sono riuscito a trovarla, ma sono riuscito a farmela dare. Non so neanche io il gusto che ci sia a mettere portante. Vabbè, tanto, ci sentiamo, i segnali forti ci sono. Tu adesso non gli stai dando problema, ti sento perfettamente, lui è sotto, quindi che problema ci mettiamo? Se non copre nessuno. No, adesso sto usando il Colt Black Shadow, che è praticamente il tipo, più o meno, una cosa di genere, tipo il tuo Palmer, quello che hai dato, senza l'orologio praticamente, non ha orologio. Vabbè, quando capita che hai cose, perché deve essere, perché sono gusti, che ad alcuni piace molto la 48, e dipende, io non ne ho mai avuto, bisognerebbe provarlo com'è di prestazioni, perché l'ho solo visto in alcune foto, qualcuno ce l'aveva, però neanche dal vivo l'ho mai visto. Io adesso, se sto andando bene, non ne uso, perché uso la volta che ho usato quel giocattolino con la ZG con due tasti, iniziavo a saturare, quindi se metto anche una cosa grossa forse non scappisce più niente. Se vado bene così lascio stare. Mia Gianni. Ciao Riccardino, buonasera. Il fatto che satura il lineare è dovuto ai watt di entrata, per cui se uno abbassa i watt dell'apparato, che li porta per dire a 3-4 watt, il lineare non satura più. Avanti. Buonasera Messina, la città di Sassari, nord Sardegna, operatore doppio room della città di Sassari, avanti. Cappa, dai, un attimino gli amici di Sassari, un attimino solo. Ti ascolto forte e chiaro, amico di Messina. Non so come tu mi stai ascoltando, mi darai un segnalito e vediamo un po' come arrivo lì a Messina, dai. Poi ti contraccombierò il segnale. Sta accadendo. Vabbè, ti passo l'amico Riccardino, vediamo un po' se l'ascolti. Ciao Messina, ben ascoltato, non ho capito il tuo nome, che ti hanno coperto. Stanno un attimino di bianco, che sta parlando Messina, poi ti facciamo entrare, un attimino di bianco. Avanti Messina di nuovo col QRZ, ti ho chiesto il segnale, se sei così cortese da darmelo. Confermo per te lo stesso segnale, dai, non ho capito chi sei, io sono doppio room, operatore Gianni, vai. Cappa, faccio girare per Chioda Ruggilito, poi mandiamo il mic per Catania, dai, un attimo Catania, ti abbiamo ascoltato. fa un attimo di bianco, te rilanciamo noi. Avanti, Chiodaro Gigi. Ascolta più, dai, avanti Riccardino, dai, avanti. Stava proprio a dire quella cosa lineare, e che non la posso abbassare la potenza, è in questo. Ma chi l'ha detto? Ci sono i trimmer all'interno, se conosci quali sono i trimmer, se tu sai, conosci diciamo tutta l'ambarada dell'apparato, tutto il service, c'è il trimmer per abbassarlo. Ah, ho capito, va bene. Solitamente c'è scritto power, eccetera, eccetera, e quella è la potenza. Però vuole farlo da una persona che lo sa fare, capito? Non è una cosa semplice. Semplice se conosci l'apparato, capito? Ehi, ho capito. No, negativo, Riccardino non ne ha sull'apparato, ce l'ha all'interno. C'è il trimmer interno, il power, e io per dire posso regolarlo perché c'ho la manopola che regola la potenza. Io per dire, se voglio la potenza l'aumento, guarda, adesso l'ho aumentata al massimo. Come sta arrivando lì? E se il son saturo o no? Dove, da me? No, aspetta, ma accatta. Non ho capito, c'è saturazione o no? Gappa. E il segnale è aumentato? Gappa, dai. E via! Via a Cattania! C'è gente in quella zona lì. Via al baracchino, stanno entrando in quella zona di Cattania, Messina, tutta quella zona. È popolato o no la 27? Ok, come da noi, dai, anche da noi siamo così. Diciamo che col coronavirus hanno spolverato molti apparecchi, anche i vecchi CB, e stanno entrando anche i vecchi CB. Però diciamo la maggior parte delle persone, quelle che modulano diciamo tutto l'anno, saremo una quindicina, una ventina al massimo, dai. No, sono a Sassari. Qui ci sono molte persone che fanno ascolto, ma che entrano assiduamente, siamo sempre qui, capito? Adesso magari come finisce questa storia del coronavirus, mi aspetto che finisca questa storia. Penso che molti se ne andranno di nuovo, tutti quelli che sono entrati, che hanno spolverato gli apparecchi, li metteranno di nuovo a posto, perché l'hanno preso solo per passare la noia. Ti salutiamo e ti abbracciamo dalla Sardegna, ben sentito, cordialità anche a te e buon continuo QSO. Avanti, Chiodaro Gigi. Ciao Messina, ben ascoltato, alle prossime. Gianni doppio room, ti stiamo chiamando in frequenza. Avevo un problema con l'alimentatore. Staccata la spina. Controlla così se va bene. Ora. Ok, riprendo io. Sì, secondo me va bene Gianni, secondo il mio parere. Questo è l'Alan 48 modificato, dai, Riccardo, ti piace? Sì, la modulazione è bella, però sì, bisogna vederlo. Comunque si sente molto che è diversa dagli altri apparecchi, no? Si fa distinguere. Allora, attenzione Riccardino, se ascolti il doppio ruolo che parla, Gambio. Sì, che ti ascolto, ti ho detto che va bene la modulazione, è bella comunque. Questo qua è Gava Gava, questo è un grosso apparecchio, spesi tanti soldi per farlo così. Non senti l'effetto elicottero, questo qui c'è doppio modulatore, effetto elicottero, 120 canali, luci blu che poi diventano rosse quando parli, è stilizzato, c'è la bandiera americana davanti. Attenzione Claudio, se ascolti il doppio room, cambio gambio. Mettendo la portante come al solito, si diverte a mettere la portante l'amico. Lo so, non ho altro da fare, mi sto rompendo le scatole anch'io, vabbè, però tanto se, ma l'ha coperto perché a Claudio l'ha coperto perché Gianni? Sì, in parte sì, in parte la modulazione l'ha coperta, capito? Quindi vabbè, non c'è problema. Comunque a me mi ascoltate bene, sì. Come va Claudio il segnale lì a Muros? Ecco. L'ultima volta che l'ho collegato era l'altra notte e che eravate in un'altra modulazione, quindi non sono riuscito ad entrare. Volevo farvelo sentire perché poi l'ho rimesso dentro e lo devo ricollegare più tardi. Vabbè, fammelo sentire, voglio vedere se va bene, ok? Poi ti mando un messaggio. Ciao, riprendete, buona serata a tutti. Ciao Claudio, ben sentito, buonasera, dai. Avanti Riccardi. Comunque ciao Claudio, non l'ho neanche ricollegato perché sono andato in campeggio da venerdì pomeriggio alle 2, quindi sono ritornato a poco e non ho avuto tempo di niente. Vabbè, non ti preoccupare, volevo sentirlo se era come quello che ci vive. Ok, poi ti mando un messaggio e magari ci spostiamo, me lo fai sentire, che sono curioso, voglio capire. Beh, buona serata a tutti, proseguite, ci sentiamo alle prossime quando sarà, ciao. Ciao Claudio, buona serata anche a te. Avanti, chiodo Ruggito. no, ma già stai andando bene, così anche se l'hai abbassato. Va a alzare di più la potenza, a vedere se arrivi lo stesso bene. Sta cominciando a saturare, non saturo però compresso, ti mangia la radio. E magari regolandolo dall'interno, quello lì si può usare tranquillamente, lo devi portare a 2 watt l'apparato e vedrai come pompa. Molto meglio, molto meglio. Cala gara. Ora, e a me come mi ascolti? Cambio basso. Attenzione. Chiodo arrugginito. Se ascolti il doppio rum, cambio. Cambio. Ok. Questo qua diciamo che esce con 1,5 watt, sta uscendo con 1,5 watt. E diciamo che l'apparecchio è 1,5 watt, poi ci puoi mettere lineari, cose del genere, è fatta apposta per attaccare anche lineari grossi. Riprendo io, stavo rispondendo a un messaggio che mi aveva mandato per quella QSL e continuate, ritorno subito. Normalmente uno deve fare prima ascolto per vedere se c'è gente, poi entra col break eccetera eccetera. Ieri praticamente tu come sei entrato hai sovramodulato chi stava parlando, quindi non si è capito nulla. Infatti io ti ho detto no, aspetta, ti rilanciamo lui, perché tu lo sapevi sicuramente che c'era gente, non ti sei accorto, non è fatta apposta, l'abbiamo capito, ma per essere corretti bisogna fare così, capito? Bene Riccardino, abbassa le voci, siamo spacchi tutto qua. Spacco tutto, stavo anche parlando, stavo ancora riguardando 2 cosette sulla banda CB, cosa devo sapere, perché ho 2 cose so, però c'è ancora tanto a imparare. Capito Riccardino, dai. va bene, da comunque se magari mi mandi, ti mando un messaggino, dai, dopo, quando carica il telefono. E io. Pagata. Avanti, chiodo. Se scarica, Riccardo, le senti? Sì, già le sento. E yeah, avanti. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Chi c'è? C'è. Attenzione, canale 10, cambio. Cambio. Io ricambio, riuscivamo a parlare tranquillamente, però a te non ti sentivo, capito? Beh, certo. Certo. Lo so che è così, è perché siamo vicini, se no non l'avrei sentito manco io. Riccardi, avanti sul binario 10. Avanti chi chiama sul 10, cambio. Cambio. Chi sei, Radio Spilla? Ma vada. Ha detto Radio Spilla, Radio Calabria. Sì, l'ho sentito anch'io. Ma era una propagazione fasulla di quelle che spariscono subito. Riccardino si è perso, aspetta che vada a recuperarlo, stai qua. Sul logo addirittura c'è musica, ragazzi, boh, è arrugginito. Sì, sono sul 10. Eccoci, ci siamo tutti, là. E intanto bisogna girare qua perché è un casino, non si può, modulare oggi. C'è nel tempo, già entrano e a voglia, ne abbiamo fatto l'altro giorno. Sì, lo so, è bello fare gli ex, ed è un po' che non li faccio, infatti se adesso si è calmata, purtroppo prima sono entrati solo due amici, infatti quando prima con lo spagnolo, stavo parlando con quello spagnolo per la costelle e c'erano tutti, non ci ho pensato, ho parlato solo con uno, ci ho messo tanto e così ho fatto solo un DX. Io prima, Riccardi, c'avevo la Station Vego, c'avevo l'antenna a centrocappotta, l'antenna era 2 metri, la Turbo 2001, l'apparecchio che ti ho fatto sentire il 48 in macchina, così, 747, parlavo con tutti quanti, andavo al mare, facevo DX dal mare, mi potevo spostare, andavo al quadrato e facevo DX da quadrato, andavo al parcheggio delle querce e facevo DX da lì, dal parcheggio delle querce sono arrivato in Inghilterra dalla macchina. Sì, lo so, anche noi abbiamo la Turbo 2001, solo che la dobbiamo piazzare. Sì, come ho detto, anche noi abbiamo la Turbo 2001, va solo piazzata. Intanto quella non bisogna regolare, ma stazionare. Come la piazzi, c'è uno di stazionari. Gianni, ma è io che stavi innescando, sentiva... Ero io, sì, perché ho il microfono amplificato e quando mi avvicino troppo l'apparato fischia, buh. Sono rientri di RR, si chiama. Era Sardegna, città e Sassari, avanti chi vuole entrare. Riccardì, questo è il Cobra, la versione 200 watt che ti ho fatto vedere col tarne più 3, quindi dovrebbe uscire così più o meno, va? Ho capito. La senti la modulazione come corposa? Sì, la sento. Giusto per fartelo sentire, dai. Va bene, continuate adesso in ascolto. Ti prendi Gian. Grazie. Cappa. Chi vuole entrare? Avanti. No, no, non è quello tedesco, di A. Ah, toffa un telefono Volkswagen. Molto bella quella modulazione, comunque adesso lo faccio qua. Sì, io a proposito di queste cose non mi piace, tipo perché molti parlano tipo i russi quando chiamano, che alcuni parlano solo in russo, oppure ci sono i tedeschi, e con quelli non ci parlo molto, parlo più con Spagna, Francia, Inghilterra, gli altri no. Ti piace qua questa modulazione perché? Questo è il TN più 3 col Cobra Pro, la versione da 200 watt, che sono tre versioni, una da 10, 25 in SSB, poi c'è la versione da 100 in SSB che è da 45 watt come il Magnum, e 100 in SSB, questa è 100, 120 watt in AM e 180 in SSB, quasi 200 modulati. E vabbè, c'è con 20 watt, così è qua. Con 20 watt? Con 200 watt? No, quella di Chiavaro Gini. Che cosa? La 48? No, 8 watt, c'ha 10 modulati quella. 8 watt, 10 modulati, me l'aveva tirato su, ma appena l'avevo comprata me l'aveva tirato su Gigi Vulcano, il trimerino, che lo sapeva qual era. Perché no, non la usavo senza lineare, la usavo, capito? Poi quando usavo il lineare l'ho lasciata così, e infatti saturava, capito? Per usare un lineare la devi riabbassare almeno a 4 watt quella radio. Se usi un transistorizzato, se usi un valvolare, non le fa niente, capito? Vabbè, no, questa è la versione, questa è praticamente la terza versione, poi non ne hanno fatto più perché forse c'è ancora qualcosa, boh, perché costava un patrimonio, costava troppo, quindi non l'hanno fatta più. Ce l'ho io e Massimiliano a Sassari, poi provincia di Sassari non so chi ce l'ha, questa versione qua, dai. Sì, TN più 3, TN più 3, quello grigio col Cobra Club. Questo adesso è potenza alta e in pratica sto modulando. Portante bianca sono 80 watt, modulati 120. Solo la radio, solo la radio, capito? Solo la radio. Va bene, dai. Non vi disturbo. Oh, Riccardi, se devi farmelo sentire sono qua in ascolto, ok? Riprendi e fai girare. Ehi, va bene Claudio, sì. Adesso, sì, no, più tardi. Va bene, mandami un messaggio su WhatsApp e lo proviamo, dai, io voglio sentire se esce bene. Ok, d'accordo, dai, riprendi e fai girare con gli altri amici. C'è qualcuno che chiama Sassari, chi è che chiama Sassari? Avanti Biella. Eri tu che chiamavi Sassari, Biella? Buongiorno Davide, dall'autostrada che ci sono in montagna. Anche io sono in montagna, ok. Ciao Davide, mi sembra ben ascoltato. 5-9, segnale per te qua a Sassari. Ottima la modulazione, Claudio Sparviero è il mio nominativo. Ti mando avanti Riccardino, avanti Riccardo per Davide di Biella. Ciao Davide, ben ascoltato. Sì, come hai detto tu, cari Sassari, se mi fai un passaggio ti dico il tuo segnale, così tu ricambierai, volevo un controllino. Sì, mi hanno sovrammodulato un pochettino, perché ricevo un pochettino della gente della Germania, del tedesco della Germania, che mi arrivano molto forte. Sono Riccardino, noi ci siamo già sentiti, anche con il collega di prima, da Venaria Reale. Sono Davide Elettrico da Venaria Reale, ma in questo momento mi trovo in questa piazza montagna che vuoi una stazione valvolare. Sto modulando per una vecchia stazione valvolare, una FT101, è un amplificatorino di 200 watt. Ancora fuori di carbone è molto sentito, cambia, perché l'aspetto, secondo non so, perché è un tipo aspetto al 5-6, se non era 2-5, cambia. Ok Davide, e tu qua mi arrivi, Santiago 9, Radio 4, se tu, anche tu mi puoi dare un controllo? Ecco, in questo momento mi sono arrivato 3-4 e Radio 5, cambia. Ok, grazie Davide. Sì, comunque hai un po' di queste B che... un po' di queste B da 9 sei passato a 7. Ok, avanti Claudio. Hai sentito cosa ti ha detto? 5-6 Radio 4, Claudio. Ciao Davide, 7351, l'operatore Gianni Doppio Lunghe ti supercordializza, avanti. Hai sentito cosa ti ha detto? 5-6 Radio 4. KK. Cioè, ma io sono il più basso di tutti a Biella. Sei il più basso di tutti perché i watt sono pochi. Quando metterai una radio che c'ha un po' più di watt, allora arriverai meglio sicuramente. Ho capito, sì, sto uscendo con 4 watt. Cosa vuoi Riccardi? Cosa vuoi con 4 watt? Va bene così, va bene così, l'importante è che riesci a arrivare. Va bene, basta che mi faccia ascoltare. Allora, va bene, dai. Ok, ciao Davide, buonasera, quindi ben ascoltato, dai. Da Sassari, Claudio Sparviero che ti cordializza. C'è un po' di propagazione, ma molto, molto sporca. Molto, molto sporca. Lo skip è molto lungo e il pile-up è molto, molto incasinato. Va bene. Un attimo che stanno modulando. No, io ho aumentato un po' la potenza, adesso sono andato un po' più di birra perché c'è l'Alta Italia che ti sta sovramodulando. Un attimo Alta Italia. No, no, io sono dentro città ma lavoro da un mini grattacielo di 11 piani. L'antenna è ubicata a circa 55 metri dal livello del stradale, capito? Per quello ti ho detto, anch'io sono in montagna, Davide, dai, va bene. Ciao, un saluto, un abbraccio, grazie per essere entrato. Avanti, doppio room. Ehi, dai, ciao Davide, ci ha fatto piacere ascoltarti. Alle prossimine, dai, magari in migliori condizioni. Ci sentiamo, avanti, che ora arrugginito, riprendi. Ciao Davide, ben ascoltato e alle prossime 73 più 51. E da poco fa che sta sovramodulando Biella. Asti avanti, Asti avanti. Cosa c'è? Lo spumante è pronto, avanti, stappa. Sì, siamo di Sassari e siamo i più forti, capito? Abbassa. Non devo abbassare nulla io. Santiago 8. Il mare anche tu stai arrivando forte. Comunque la 995, il segnale è la radio 5. Positivo, dai, non ho sentito tutto, comunque ho capito il controllino. Non solo ho capito le coordinate, dai, perché ti hanno coperto, Comunque quando arrivi. Ho detto che ti hanno coperto, Ricca, però quando arrivi bene. Chi è che ha detto abbassa? Qualcuno la sa, se avanti chi è? Più piccolo, io sto parlando da uno scantinato, un seminterrato, c'ho un baracchino a 3 watt. Comunque ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Riccardino, chi c'è poi? Ah, è Claudio da Muroso. Avanti a più lontano, dai Claudio, riprendi tu da Muroso. Ascoltato Claudio, chioda Ruginito, 10 km da Sassari, tutto sparito, non c'è più niente. Ciao Robè, buonasera, ben ascoltato, riprende, fai girare, c'è anche Gianni doppio rumo, dai. Io l'ho ascoltato a Gianni, tutti stanno tirando potenza di kilowatt, che è il più piccolino di tutti, ci sono tutti. Ok, vai Gianni. Ciao Robè, ma quale potenza di kilowatt? Buonasera Roberto, buonasera anche all'amico di Arti se mi sta ascoltando, ma penso di no, perché non sento più che propagazione, dai, proviamo a vedere un pochettino se c'è ancora. Avanti l'amico di Asti col QRZ, così qui è doppio rumbo che ti supercordializza, va? Qui Asti è positivo, a te ti sento e mi calci, purtroppo non riesco a sentirle per la propaganda che sale e scende, ho solo sentito i saluti per Asti, ma altro non sono riuscito a sentire, dai. Ciao l'amico di Asti, non ho copiato il tuo QRZ, è il doppio rumbo che ti supercordializza. Se mi vuoi dare un controllo di Santiago Radio mi fa la cortesia, poi ti saluto. Ho solo sentito la richiesta di un controllino, segnale 6, radio 2, 3, la propaganda scende, non mi sento più. Aspetta se ascolti me, attenzione anzi, se mi chiudi qua operatore Roberto, puoi serlo? Dai, avanti Roberto. Attenzione Assi, se copi qua a Sassari, operatore Roberto, mi dai a chiamare un controllito per favore. E anche se santo. Aspetta, forse l'ho messo là. Adesso sto uscendo bene? Adesso sì. Forse ho toccato il coso senza accorgermi, perché non è FM prima. Attenzione Assi, mi ascolti? Ho sentito chiamare Assi, campa. Sì, Roberto qua, sì, da questa parte. Mi dai un controllo anche a me di Santiago e di radio, per favore. Positivo, ti sento forte e chiaro, segnale 7, radio 5, tutto il centro, tutto positivo, Il tuo rapporto è 9, radio 5 da questa parte, anche se vedo che ogni tanto c'è quel USB e si abbassa. Ok, ti saluto, è stato un piacere ascoltarti anche se per pochi secondi. Alle prossime, ok, avanti Riccardi. Ciao Roberto, ben ascoltato. Dove sei che ci sento più basso da quanto ho capito? Io più basso. Forse perché la fondazione è buona. Isetta, come sta andando? Aspetta un po'. No, qua sembra essere tutto a posto. Ah, come sta andando? Comunque sembra la radio un po' occupa, non so cosa hai toccato. Comunque il segnale è tuo, non so. Ti ho detto che quando io attacco il kilowatt già te ne accorgi, roba, io sto andando alla potenza della radio. L'alta potenza della radio, del Cobra, il Tame più 3, 50 watt. 50 watt, 80 watt di portante, 120 modulati, però basta, non ne ho altro, lineare attaccato. Quando attacco il lineare già te ne accorgi, te l'ho già detto. Ok, avanti Claudio, riprendi. No, siccome ero in FM, adesso forse stavo uscendo, ho toccato il coso, il livello microfonico, ditemi se sto usando, non il microfonico, la potenza in FM va al massimo, com'è adesso? Va bene, lasciala così. E questo in FM spara tutta la potenza, e ho abbassato, probabilmente non ho regolato bene la potenza in AM. Ok, mi ascoltate bene, confermate? Ehi, adesso sì, Robè, prima era compressa Satura, come la vuoi chiamare, Satura no, forse più compressa che Satura. Va bene, dai. Comunque ogni tanto qualcuno entra da fuori. Un paio stasera l'abbiamo fatto. Ti ho già detto che c'è lo skip lungo, sai cosa vuol dire? Che la propagazione è molto lunga, quindi non essendo lunga non è costante. e c'è il pay-up molto molto incasinato, quindi c'è tanta gente che cerca di inserirsi ma non si riesce ad arrivare a lunga distanza, quello vuol dire, è per quello che non è costante la propagazione. Va bene, va bene. E come non sei in giro, Robè? Non sei andato al mare? Robè, non sei andato al mare? Ma la vedo che è caduto dal guardrail. Avanti, Riccardo, prendi. Adesso vediamo se risponde. Comunque io sì, sono andato all'Argentiera. E tu sei da quando? Sabato all'Argentiera? Venerdì. Però non ci sei fatto sentire alla radio, come mai? Perché non sentivo nessuno, ti spiego, questo apparecchio che ho, che spara di watt, è diventato mezzo assorto, devo cercare qualcuno che me lo può riparare, perché qualche volta quando ascolto e poi da un tratto senza nessun motivo diventa assorto. Ma se c'è qualcosa in perdita, Fabrizio lo devi dire. Oramai il tuo padrino è Fabrizio, devi dirlo a lui e te lo fai sistemare da lui, capito? Ho capito, sì, bisogna dirlo, lo devo dire anche per la storia della 220 del Colt, non del Colt, dello Stalker. C'ha solo 12 volts? No, c'ha, dopo i 12 volts c'è anche la 220. Beh, ma non funziona 220. No, a 220 va, è che dice Roberto e altri che c'è un rumore di alternata. Solito ronzio che fanno i trasformatori a 220 di quei tipi di radio, a me me lo faceva il Galaxy. No, questo che ho io il Polman non lo fa. 220 e anche 12, c'ha lo stesso attacco dell'Alan 48, l'ho provato. Accende anche a 12 volts. Va bene. Avanti, doppio rullo, riprendi. Sono delle lamelle che si consumano. Mi pare che ci sia uno spray per quelle cose lì, che fa da guarnizione, non lo fa vibrare, non lo fa uscire via la fermata. No, io nel Galaxy me lo sono sistemato io. In pratica è proprio così, dove ci sono le quattro viti che mantiene il trasformatore, lì ho messo dei...